Siamo in missione per conto di Dio. "24 mattino" di Luca Telese. Reach out, touch faith. Voi siete nel traffico, siete nel bagno, siete nel letto, ma siete svegli. Grazie al cellulare ci arriva un meraviglioso messaggio di Valdimiro che dice: ci ascolta mentre sullo scoglio a pescare sta albeggiando, magnifico spettacolo, vi ascolto con piacere aspettando. Jesus. Meloni, pensava veramente che ci fosse in giro una dichiarazione soft di La Russa su Ius Soli? No, impossibile. No, che ne so, con La Russa non si può mai sapere. Però diciamo no, ecco. Sentiamo Elisabetta Scala del Moige. Buongiorno, buongiorno. Ma voi siete veramente, siete dei bacchettoni fantastici. Io non so quanto tempo passate a vedere TV Spazzatura. Non ce ne saremmo neanche accorti. Speriamo in fretta in un Piemonte libero. Ma stiamo impazzendo! Piemonte libero, Tirolo libero, Lombardia libera, Molise libero. Molise libero, la parodia di oggi. L'autonomia progressiva della magistratura che risponde solo a se stessa, col CSM che poi lascia tutto così com'è, a ogni scandalo giudiziario, come vedi, finisce con archiviazione e così via, deriva dal fatto che colpiscono la politica. Io non mi aspetto mai, nel mio arco vitale, mai più la possibilità che la politica sia capace di un intervento su questi eccessi. Io resto convinto che la rete e il cellulare siano il più grande rincoglionimento di massa nella storia dell'umanità. Lo sai che la mattina lo sai che la mattina hai dei tempi di reazione un po' da Bradipo, E come si chiamerà questa formazione di sinistra? Non lo so, a sto punto minchia. Come si chiamerà Civati? Beh, non minchia, ecco, dovrei dare un messaggio di speranza agli elettori. Questa è una storia di ladri. Di Lupin al mondo uno ce n'è. Non volevo questo Lupin, ma quello della generazione precedente, che è la mia. Reach out and touch faith. Popolo dei già svegli, buongiorno, buongiorno e benvenuti. Allora, molti di voi ci hanno lasciato il messaggio sul risveglio. Molti ci stanno raccontando cosa accade in queste prime ore del mattino e noi vi raccontiamo cosa succede in Italia mentre inizia ad albeggiare. È una giornata complessa, una giornata in cui si parla soprattutto di ostrogoto, cioè di legge elettorale, ma cercheremo di capire che succede con il Rosatellum bis, dopo il Tedeschellum, dopo il Porcellum, dopo il Maialinum, dopo il Fianum, c'è il Rosatellum bis. Oltre a danneggiare il Movimento 5 Stelle, ed è evidente, lo dicono tutti quelli che capiscono di legge elettorale, è evidentemente incostituzionale. Noi abbiamo studiato molto in questi anni, i nostri tecnici ce l'hanno sempre confermato, è una legge incostituzionale perché ha le coalizioni variabili, uno va a fa una coalizione al nord, lo stesso partito si coalizza al sud in maniera differente. E questa era la voce di Toninelli. Toninelli ha arrabbiato con la legge. I principali oppositori di questo nuovo testo sono i 5 Stelle, per l'appunto, la sinistra e anche la Lega. Un po' dentro, un po' fuori, comunque il patto a 4 tiene. Solo che anche l'altra volta erano blindati, c'erano 100 voti di maggioranza e poi l'Aula, col voto segreto, ha distrutto l'accordo. Non c'è nessuna emergenza sangue in questo momento a Roma. Abbiamo avuto il timore che ci potesse essere se non ci fosse stata una disinfestazione dalle zanzare, che sono il vettore che trasmette l'influenza. Quindi questo era il tema. Eccolo, mentre scorrono le note potenti del grande Eric Clapton, e voi direte perché? Perché è una bella canzone, certo, perché la storia è rock, certo, ma soprattutto c'è anche una notizia. Eric Clapton ha detto che lascerà le scene, gli ultimi concerti, gli ultimi accordi di chitarra, poi non suonerà più. L'unica speranza per i fan è questa, ha detto, è la quinta volta che lo dico. E questa però era la ministra Lorenzin. Sì, perché a Roma si oscilla fra la paura zanzara, l'emergenza sangue, il rischio esondazione. È veramente, sembrano le piaghe d'Egitto. C'è un demone che si è sempre impossessato della sinistra, e questo demone è la sua ingegneristica capacità di dividersi. Di dividersi sempre. Come c'è una divisione in terrazza, si va dal portiere a chiedere le chiavi. È bella questa immagine di Walter Veltroni parlando alla festa di Imola. Si va dal portiere a chiedere le chiavi. Fantastico. A Napoli dobbiamo fare qualcosa di più che recuperare un rapporto con la città. Quando si arriva sotto il 10%, vuol dire che c'è qualcosa che va al di là del dissenso programmatico. Vuol dire che il nostro partito viene disprezzato. Questa è la verità. Il nostro partito viene disprezzato. E questa è la verità di De Luca, Vincenzo De Luca, sindaco, già sindaco di Salerno, governatore della Campania e grandissimo e fine dicitore che appassionava tanto il nostro amico Milan. Uno non diventa politico improvvisamente per caso. Allora, è una citazione. Questo da è il Beppe biografo Grillo. Di Maio. Oggi, parlando Piccone. Di Di Maio, è una macchina da guerra, ma quando l'abbiamo preso in provincia di Napoli parlava come Bassolino. Era Mirta Merlino, l'avrete riconosciuta all'aria che tira, che ha avuto la bella idea di invitare Piccone, l'autore della biografia del nuovo candidato premier. E questa è l'ultima notizia che introduciamo in questa giornata: la bomba atomica su Rousseau, il sistema che doveva garantire il voto nel movimento e che è andato, pensate voi, in tilt. Allora, ai microfoni di questa radio, il grandissimo presidente del Napoli, nonché grandissimo produttore mega galattico, Aurelio De Laurentiis. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma lei è già sveglio con una voce tonica, come no, mai? Per me ci sono le 6.37. Sono esattamente le 9.35 della sera. Ah, ecco. Le 21.35. Quindi è già sveglio causa fuso orario. Esatto. Dove sta, se possiamo saperlo? Un viaggio segreto? Sono a Los Angeles. Ah, nella capitale, nella mecca della cinematografia mondiale? Nella mecca della cinematografia mondiale. Però ormai è diventata la mecca della televisione mondiale, perché ormai i film hanno lasciato il passo alle serie televisive, che sono sempre più straordinarie e sempre più vincenti. E lei oscilla fra calcio, spettacolo, che racconto fa dell'Italia vista da là? Ma l'Italia mi preoccupa ormai da parecchi anni, il problema non è tanto l'Italia quanto gli italiani, perché gli italiani non hanno questa grossa capacità reattiva di decidere, perché quando manca il 50 o il 60% dell'elettorato alle urne è grave, è molto grave. Io combatto sempre con i miei figli che appartengono proprio a questa generazione che non vuole votare. No, che ormai è disaffezionata. E allora io dico: ma guardate ragazzi, voi non è che dovete essere affezionati o disaffezionati alla classe politica. Voi dovete essere affezionati al vostro paese. Che il paese è vostro, non è dei politici. I politici ve lo hanno scippato e quindi fino a che voi siete fessi è quelli che ballano la tarantella. Fantastico, mi sembra più che condivisibile. Senta, prendo uno spunto dalla verità di oggi, che scrive un'intera paginata: la Serie A con 20 squadre fa dormire i tifosi, i piccoli club crivellati di gol, c'è meno interesse per il campionato. Lei sente che il sistema calcio con i suoi rapporti di forza molto squilibrati è in crisi? Ma non è che sia in crisi, sono in crisi gli uomini che anche lì conducono, non si sa per quale motivo, le danze di un calcio, quello di Serie A, che è un'industria. Certo. E quindi lo conducono ancora con quella mentalità di 20-30 anni fa che non paga più, perché l'Europa è un altro tipo di Europa calcisticamente parlando. Cioè quindi, come immagina, diciamo, in economia c'è un divario fra l'Europa, il calcio europeo e il calcio assolutamente nazionale. Assolutamente sì, veda, nel 1986 le squadre di Serie A erano 16, poi non si sa per quale motivo siamo diventati 20. Invece se fossero ancora 16 con una sola retrocessione, sarebbero tutti più felici e tutti più competitivi. Ora veda, poi noi abbiamo questo grosso problema. Quindi lei toccherebbe il numero di squadre? Sì, io lo ritoccherei. Però il problema è anche un altro. Noi abbiamo in front come... Esatto. E che ora dice come... portiamo una barca di soldi, portiamo più di 200... Ma non è vero. Dice delle bugie. Dice come? Delle bugie che vanno bene alle piccole società di calcio, ma non vanno bene a quelle che vorrebbero un calcio competitivo. Per fare un calcio competitivo ci vogliono dei grossi calciatori. Lei ha visto che nell'ultimo mercato l'operazione sono spesi centinaia di milioni, sì, per dei signori calciatori, e tutto quanto è stato completamente twistato, cambiato. L'operazione Neymar, certo. Prima, quando uno faceva un'operazione da 40, 50, 60 milioni, sembrava che chissà che operazione avesse fatto. E adesso oggi, sopra i 200 milioni di euro. Ora è diventata una follia. Allora, tutto ciò che cosa pone? Pone un problema... Di come si vende il calcio italiano. Al calcio italiano, perché il calcio italiano è molto indietro. Veda, gli spagnoli hanno un amministratore delegato che la vede lunga, il quale in 3 anni, da quando sta in Spagna, ha risanato il calcio spagnolo. Se loro per l'estero prendono 700 milioni, non si capisce perché noi ci dobbiamo accontentare di 300 o 400 milioni. Allora, il problema qual è? Se De Siervo non è in grado, non è capace di guidare una Ferrari, e invece di una Ferrari vuol dimostrare che ha una Fiat, ha sbagliato casa. Veda, lui può accontentare i piccoli club che hanno paura di non poter arrivare alla fine del mese. Perché qui c'è un problema poi da distinguere tra economico e finanziario. Allora noi, per poter pagare il finanziario delle piccole squadre, dobbiamo rinunciare all'economico e quindi ci dobbiamo accontentare di qualunque discorso. Ora, quindi lei sta dicendo si potrebbe avere il doppio almeno, no, Infront potrebbe vendere il calcio italiano al doppio, quasi. Innanzitutto io vado oggi a vendere quello che comincerò a utilizzare fra un anno per i successivi 3 anni. Quindi io da oggi vado ad abdicare 4 anni, ma noi non sappiamo fra un biennio cosa sarà accaduto nel mondo con Amazon, con tutti gli altri grandi player che si stanno riassestando. Quindi vendere oggi in quel modo è da stupidi, da ottusi, da folli, da mentecatti. Quindi, ma io poi perché devo avere, dopo Bogarelli che era un illuminato, devo avere un De Siervo che viene da una RAI che non mi sembra che facesse del calcio vendite pazzesche o cose pazzesche? Io, con tutto il rispetto che posso avere per Luigi De Siervo, direi: caro Luigi, tu sei un semplice advisor, adesso ti mettiamo qualcuno dei nostri che scegliamo vicino e vai a fare le trattative, ma non puoi andare a fare delle trattative al di sotto del calcio spagnolo. Perché il calcio spagnolo ha l'Atletico Madrid, il Real Madrid e il Barcellona, grandissime squadre. Ma noi abbiamo la Juventus, la Roma, l'Inter, il Napoli, l'Inter, il Milan, la Lazio, la Fiorentina. E allora poi è chiaro che se devo andare a pagare anche lo scotto di avere delle squadre che giocano con i giocatori della Serie B, per cui perdono 6-0... E questo è un problema che io ho affrontato varie volte con il presidente Davecchio, il quale però, poiché deve mantenere il suo posto e la sua poltrona, ci sente e non ci sente e continua a dire: ma siete voi della Serie A che dovete imporvi. Ma no, ma scusami, tu che ci stai a fare? Federativamente parlando, sediamoci tutti intorno a un tavolo e decidiamo anche con la UEFA come rimodellare il calcio affinché sia un calcio che accontenti tutti quanti. Bene, mi sembra un guanto di sfida molto importante, cioè la squadra che guida la classifica sta dicendo così non va bene, sta dicendo commissariamo in qualche modo il... No, è già commissariata la Lega, il problema no, è che anche commissariata De Siervo. Però non vuole prendere coscienza, poiché vogliono vedere i soldi subito, anche pochi, maledetti subito. Brutti, sporchi e cattivi, certo. Quando io sento dire da De Siervo che lui porta 300 milioni, io gli vorrei dire, ma guarda che noi siamo stati schiavi di quel paravento di Silva che ci ha imbrogliato per 15 anni dandoci peanuts, dandoci noccioline e non facendo soprattutto sviluppare il calcio all'estero. Ora, il pericolo dove sta? Quando io sento parlare di Suning, per esempio, e no, Suning non può intervenire perché c'è l'Inter di mezzo, sono certo. I proprietari dell'Inter, allora cosa fanno? Mi fanno il gioco al ribasso? Non va bene. Allora, onesto, ci fermiamo solo un attimo per le indicazioni del traffico e poi commentiamo l'opera d'arte, il Picasso di questa giornata calcistica appena trascorsa, il gol che ha fatto impazzire Napoli e nascere un nuovo mito, quello di Mara Mertens. Tracoscia esce molto bene ancora una volta, porta vuota, però Mertens può pensare, ci pensa, lo fa partire e segna l'ennesimo capolavoro assoluto. Mattino. I già svegli. Sono già sveglio per dare ai miei clienti una buona tazza di caffè, una brioche, un po' di burro e marmellata e per rendere il loro mattino un po' più gradevole prima che loro vanno a lavorare. Ma io purtroppo comincio prima di loro. Buongiorno, sono sveglia da un quarto alle sei. Perché faccio l'insegnante, faccio la mamma, faccio la moglie, insegno da quasi 30 anni e ne ho quasi 53. Anche a me piacerebbe andare in pensione a 60 per godermi tutto quello che fino adesso godo solo in forma di ritaglio, quindi la mia famiglia, le mie amicizie e le mie passioni. Sono Domenico da Roma, un già sveglio dalle 6. E mi porta dietro questa insana ma utile abitudine da 30 anni, da quando per entrare in tempo al liceo Visconti, se non eri un fighetto di Monteverde Vecchio, di Rione Monti, dovevi alzarti all'alba e prendere due autobus. A Radio 24 c'è Luca Telese, una volta al mese. No, tutti i giorni di primo mattino, c'è anche Oscar Giannino. E allora eccoci tornati qui. Lei normalmente, presidente De Laurentiis, a che ora si sveglia? Verso le 5:45. Ah, quindi proprio un insonne, per seguire tutti i tavoli della sua vita si sveglia no, molto ma presto. No, questo, è che a una certa età si dorme non più di 4 ore, massimo 5, è fisiologico. Allora, eravamo rimasti con la cronaca di quel gol pazzesco, si è detto una pennellata, un'opera d'arte. Ci dica come l'ha visto lei, come lo descriverebbe se fosse un film? Beh, non me l'aspettavo, ho visto che si girava e poi ho visto questa palla entrare nell'angolo del destro della porta e sono rimasto basito, sono rimasto incantato, sono rimasto così su... Ho sublimato questa sensazione gustandola olfattivamente sulle papille per qualche minuto, non ci credevo, era molto bello perché ogni tanto poi mi portavano un caffè fatto con la moca e con una miscela di Torre Annunziata particolare e quindi ogni tanto io non mi accorgevo più di quanti caffè stavo bevendo e quindi a un certo punto mi sono venute anche le palpitazioni. Con questo gol meraviglioso avrà un premio speciale, gli farà un regalo a Mertens per essersi girato, aver immaginato una parabola impossibile. Beh, ma Mertens già ci ha fatto lui un regalo a noi, poi sembrerebbe una cafonata dover rispondere al regalo col regalo, no? Bene, allora grazie per aver ci raccontato le notizie di questa giornata, la sua visione sul calcio, ma quindi a questa riunione importantissima che c'è oggi proprio su questo tema dei soldi, lei non parteciperà? Parteciperà. però attraverso dei miei rappresentanti. Purtroppo De Siervo è cocciuto. Quando io gli dissi di non presentare per l'Italia il bando, perché non c'erano le condizioni in quel momento, lui disse che io ero un visionario, e invece questa asta è andata malissimo. Io gli dissi: scusami Luigi, adesso? Va bene, ma un sacco di chiacchiere, si fanno molte chiacchiere, le chiacchiere sono da bar. Qui ci vogliono i fatti, perché noi siamo un'industria, l'industria del calcio. E certo, e questo è un tema che riguarda l'Italia in tanti campi. Senta, ma lei è molto scaramantico, ma quest'anno se la sente di toccare qualche corno e dire che forse è l'anno del Napoli? Ma io, guardi, i corni in casa, se lei viene a casa mia una volta, le offrirò un caffè, vedrà che c'è proprio una teca piena di corni che io conservo gelosamente, no? Si dice che non bisogna farli vedere perché sennò si scaricano. Invece a me piace proprio caricarli dell'invidia altrui. Ma questo è fantastico. Va bene, verrò a vedere la teca. Grazie presidente, la sveglieremo ancora qualche altra volta sapendo, anzi la sveglieremo, la raggiungeremo sapendo che lei è già operoso di prima mattina. Buongiorno. Grazie a voi, buona giornata. Allora, ascoltatori pignoli, meticolosi e preziosi, buongiorno Telese, la cocaina non è di Clapton ma del grande J.J. Cale, è vero, però è la versione cantata da Eric Clapton. E poi un altro, Lupin, la versione suonata da Castellina Pasi, famosa band romagnola. È vero, parlavamo di quel Lupin che era i tanti Lupin, le tante colonne sonore di Lupin che abbiamo evocato in queste ore. Ma ho al telefono l'uomo che può svelare il mistero dei misteri, non più solo sul corpo di Berlusconi, che va studiato come quello dei re taumaturghi, ma anche sui nostri corpi. E quindi saluto, buongiorno, Alberto Zangrillo. Buongiorno. Allora, il professor Alberto Zangrillo, che tutti conoscono per la sua attività di illuminare, ha preso la parola, è intervenuto addirittura su Facebook, perché è anche molto moderno, e ha smentito, questo è solo il punto di partenza, le dichiarazioni del professor Lemme, dietologo, che aveva detto, fatto dimagrire Berlusconi grazie ai bomboloni alla crema e la pasta mangiata di prima mattina aglio e olio. E sapete che Zangrillo è una persona rigorosa, molto seria, però gli ha detto basta, devo rompere il mio silenzio, devo rompere il mio riserbo, Berlusconi non è minimamente dimagrito mangiando pasta di prima mattina. È così, professor Zangrillo? Sì, allora innanzitutto il mio rigore mi impone di correggerla, no? Nel senso che no, mi corregga. Professor Lebbe, è troppo, ecco. È molto simpatico. Dice anche alcune cose giuste. Il signor Lemme. Però, no, vabbè, anche dottore. In ogni caso, io credo che la prima cosa... È farmacista. Dobbiamo dargli il titolo di farmacista, in effetti. Farmacista, quindi dottore in farmacia. È quello di cercare di avere dei comportamenti corretti. Allora, noi mangiamo come se dovessimo andare in letargo. Adesso, non tutti, però capita purtroppo spesso di mangiare in orari sbagliati, per esempio la prima cosa di cui tener conto è che è veramente scorretto mangiare tanto la sera, perché se ci pensiamo la sera poi si segue un lungo periodo di riposo e non si bruciano calorie. E non si brucia. Quindi qual è però, diciamo subito, qual è la formula segreta che consente di ottimizzare al massimo? Se lei dovesse dire a tutti quelli come me non eccessivamente magri che pendono dalle sue labbra in questo momento... Lei allora, ha detto Berlusconi, passeggiate la mattina, esercizi in palestra e sì. Morte ai carboidrati, giusto? Sono dei luoghi comuni, però francamente l'esercizio fisico è fondamentale per chi può farlo. In ogni caso non tenere tanto del conto delle calorie, ma la qualità di quello che mangiamo. Effettivamente i carboidrati, quando sono in eccesso, e spesso lo sono, anche quando mangiamo, applichiamo l'amata dieta mediterranea, c'è una regola del nostro organismo che è quella di convertire i carboidrati in eccesso in grasso, quindi in accumulo di grasso. È proprio una legge fisiologica, no? Ed è la legge dell'orso, no? Che accumula carboidrati sotto forma di quello che trova nel bosco, perché sa che ha il letargo e diventa un ciccione. Allora, grazie professor Zangrillo, questi consigli volanti sono quelli che aiutano. Ci fermiamo ancora per il GR. Buongiorno. Ciao papà, sei obeso.